Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. La banda Bonneau di Bernard Thomas, capitolo ottavo, parte seconda. Arrivando nel centro commerciale di Ivry, Jules si sforza di tenere un contegno normale, avvolge nel fazzoletto il polso sinistro ferito, da cui il sangue sprizza copiosamente. Le fitte gli arrivano fino alla spalla, la testa gli gira, i marciapiedi gli ballano davanti agli occhi. Come un sonnambulo, cammina dritto davanti a sé. Giunge così in Place de la Matrie. Il bocco di metrò si apre provvidenzialmente sotto i suoi passi, lo imbocca. Sceglie un posto in fondo al vagone e lancia intorno sguardi indagatori. Un uomo lo guarda al di sopra del giornale. Jules lo fissa finché l'intruso abbassa il capo. Un secondo di più e avrebbe tirato fuori il revolver. Altre persone salgono nello scompartimento. Lui scende alla stazione di Châtelet. Si immerge nella folla, senza sapere dove va. Il braccio gli si intorpidisce, cerca di riflettere. Il cervello non funziona più, ma bisogna riflettere. Entra in un caffè e per la prima volta da 20 anni beve un cognac al banco facendo smorfie. Poi ne beve un altro. Brucia la gola, gli si imbrogliano le idee. Bisogna trovare un nascondiglio. Il lungo cammino che da Pont de Roeld lo ha portato a Lione e poi a Parigi non può concludersi così penosamente, a un banco di osteria. Sogna l'apoteosi, l'apocalisse, le dolci notti con Judith, suo figlio Justine, lo chiamava Lili. Sua madre, a poco l'alcol fa il suo effetto, il brusio della conversazione gli risuona attorno. Lione, la Guillotière. Senza Platano sarebbe felice in questo momento, accanto a lei. Tutto ciò è assurdo. Che cosa è venuto a fare a Parigi? Ah sì, l'idea di Platano, riscattare il garage di Dubois, a Chesnay-le-Roi, Dubois. Ci siamo. Jules ha la soluzione. Scoppia a ridere sotto lo sguardo interdetto del cameriere del caffè, che gli dà il resto. Esce come in un sogno. Il metrò lo porta alla gare d'Austerlitz, poi il treno a Choisy. In capo a 10 minuti, all'euforia prodotta dalla bevuta, succede un profondo abbattimento. Vacillando, esce dalla stazione e, allo stremo delle forze, non potrà resistere a lungo. Vede una farmacia, racconta una storia di scale da cui sarebbe caduto, si fa fare una medicazione di fortuna e si fa dare delle medicine. Al diavolo la prudenza, si tratta anzitutto di non cadere svenuto. Si reca poi al Nido Rosso, nel posto in cui il Chemin d'Evron prolunga l'Avenue de la République nel mezzo di un campo che fa angolo con la strada nazionale e la Rue Jules-Vallée. È facile da trovare. Il garage è indicato da un grande cartello, Lotti Fromentin. Dal nome del proprietario, l'anarchico miliardario, che per il gusto dello scandalo mette una parte della sua fortuna al servizio della bandiera nera. A est giardini appartenenti alle ville vicine, a sud un piccolo sentiero che porta da Dubois. 42 anni, un uomo alto, vigoroso, biondo, di origine russa, ma che l'accento fa passare per belga. Jules lo conosce abbastanza bene, hanno fatto degli affari insieme. Dubois si è incaricato di vendere una vettura rubata da Bonneau lo scorso luglio alle fabbriche Lumière di Lione. Ha assolto molto bene il suo compito e, malgrado i sospetti della Sûreté che è venuta ancora a cercarlo 3 settimane fa, non si è mai potuto provare niente contro di lui. La casa, rivestita di mattonelle con un tetto di tegole rosse, si compone di un'officina a pian terreno, rischiarata su 2 lati da vetrate, e di un appartamento al primo piano, cui si accede solo tramite una scala esterna. Dubois è intento a cambiare il carter di una Panhard Levassor carrozzata da Kettner. Al rumore dei passi si sporge e per la sorpresa rischia di far cadere la bacinella che tiene in mano. «Per Dio!» dice. Salta in fretta, fuori dal suo buco, e viene a stringere la mano al suo ex fornitore, Jules, vacilla sotto la robusta stretta. «Ferito?» chiede Dubois. «Una sciocchezza», dice Jules. «Ho bisogno di riposare qualche giorno, non potresti?» Dubois si gratta la testa. Guarda il bandito con aria pensierosa. Poi non si parla che di te, lo sai? Jules tace, il volto chiuso, ostile. Dubois esita. Non posso rifiutarmi, finisce col dire. Non è che mi diverta, sei un po' troppo noto per me. Veramente il modo in cui gli amici sono stati venduti agli sbirri è disgustoso. Grazie, dice Bonno semplicemente. Dubois lo accompagna al primo piano. Non hai bisogno di niente, chiede. Di niente, dormire, un bicchiere d'acqua se puoi. Jules passa la sera del 24 e quasi tutta la giornata del 25 a letto a curarsi, alla febbre. Il 26 passa senza incidenti. Muore dalla voglia di scendere a dare una mano al meccanico, ma non sarebbe prudente. Il cliente potrebbe sorprenderlo. Legge i giornali e ricomincia a nutrirsi regolarmente. Il 27 si sente meglio. Passa la serata a tu per tu con l'ospite a snocciolare ricordi. Spengono la luce a mezzanotte. 6 di domenica 28 aprile, Dubois è in piedi. Jules si alza poco dopo. Alle 7:30 il meccanico si dà da fare su una limousine verde che deve consegnare la sera stessa. Improvvisamente risuona dietro le sue spalle una voce stentorea. Polizia, la casa è circondata. Perquisizione. Dubois ha i riflessi rapidi. Senza dir parola, balza verso il sedile posteriore della vettura in cui ha nascosto una Browning. In alto le mani, grida ancora l'ispettore Fleury, seguito da due uomini con la pistola in pugno. Ma Dubois è più lesto, fa fuoco per primo, due volte, indietreggiando dietro la Panhard. Assassini, assassini, urla ogni volta. Spara un terzo colpo, che ferisce a un braccio l'ispettore Arlon. I poliziotti rispondono. All'esterno, sopra la loro testa, risuonò un altro colpo. Alzarono gli occhi. Uno stesso grido uscì dal loro petto. Bonneau! Sì, è lui, l'inafferrabile, lo spietato, il terribile bandito. Proprio colui dietro il quale hanno tanto corso per 5 mesi, l'uomo che fa fermare tutta la Francia è lì. Con le armi in pugno, davanti ai loro occhi, è apparso in maniche di camicia, in cima alla scala di legno che Xavier Guichard, seguito dal nuovo sottocapo Legrand d'Augine e da 3 altri ispettori, sta salendo. Bonneau ha compreso immediatamente la situazione. 3 poliziotti in fondo con Dubois, 6 su per la scala, 9 intorno alla baracca. Erano fregati. Prende la mira un'altra volta. Guichard, il suo più fedele nemico, e lo manca. È Augine che si prende la pallottola nel ventre. Lo sfortunato vacilla, cade all'indietro. Capo, è finita, geme. Dal basso i poliziotti mitragliano in direzione di Bonneau, mentre Guichard e la sua scorta si lanciano verso la scala. Indietro, riparatevi, ordina Guichard. Bonneau rientra senza affrettarsi nella casa e richiude la porta. I 18 poliziotti corrono a mettersi al riparo tra cespugli, alberi, fossati, un po' più lontano. Bonneau esce di nuovo, aggiusta la mira, senza preoccuparsi, apparentemente delle pallottole che gli fischiano vicino alle orecchie, ma a 20 metri la precisione del Browning non è sufficiente. Avrebbe bisogno di una carabina. In basso Dubois non si muove. Jules considera attentamente le posizioni nemiche, come se le guardasse con disprezzo dal suo osservatorio, e si ritira di nuovo per ritornare alla finestra, qualche istante più tardi rompere il vetro e tirare ancora. Sparpagliata tra i solchi e i piccoli avvallamenti del terreno, la Sûreté lo bombarda di colpi. Non risponde più. Silenzio per un quarto d'ora. Passanti curiosi, vicini, si riuniscono in piccoli gruppi. Un ispettore accompagna Arlon a farsi medicare in una casa vicina. 2 altri trasportano Augine in macchina in una farmacia di Rueil-du-Pont a Choisy. Poi vanno alla gendarmeria a chiedere rinforzi e informano il sindaco Rondù. I gendarmi, seguiti da Rondù e dal suo vice Lagerot, si precipitano di corsa verso il garage della strada di Avron. Ore 8. È l'ora in cui gli allievi della scuola comunale di Chaisy stanno per entrare in chiesa per la loro solenne comunione. Tra di loro c'è Georges Augin, di 13 anni, che con un bracciale al braccio e il cero in mano si appresta a sfilare verso l'altare. Tre compagni atterriti gli annunciano che una battaglia terribile si svolge tra 20 ladri e 10 gendarmi, che il padre è stato ferito. Georges lascia il corteo e corre alla farmacia. Vi entra singhiozzando. Suo padre lo consola, gli parla del dovere. Sarà un esempio per lui per quando sarà grande. Le sofferenze non contano. Georges, il cuore in tumulto, ritorna alla sua comunione. Sarà il protagonista della giornata. Suo padre è un eroe. L'odio verso i cattivi banditi che ammazzano i buoni ispettori gli si è ben radicato nello spirito. Frattanto, nascosto in un boschetto, Xavier Guichard attende, seguito prudente, e ha strepitato a sufficienza contro l'azione diretta praticata in precedenza da Juin, che è costata la vita, per non voler correre troppi rischi. Da 8 giorni l'ispettore Fleury, che si era occupato di Dubois per lunghe settimane, lo seccava perché venisse a dare un'occhiata al Nido Rosso. Guichard ha accettato di organizzare un'operazione solo 2 giorni prima, quando il farmacista di Choisy, accurato Bonneau, è venuto a confidarsi alla Sûreté. Non che la presenza del bandito sia certa, le voci lo segnalano in 10 altri posti, ma bisogna pur tentare qualcosa. Una volta deciso di buttarsi, Guichard ha voluto però munirsi di una solida scorta. Guillaume, suo segretario, Tanguy, quello del suo vice, e 14 ispettori, tutti quanti sono armati, quanto basta perché in ogni circostanza la legge possa avere il sopravvento. Il capo della Sûreté alle 8:15 non sa che Dubois è morto dietro alla sua limousine verde. Ignora che Bonneau è solo e che la baracca non ha scale interne. Accordiamogli queste circostanze attenuanti. La sua reputazione di eroismo ne ha bisogno, perché l'assedio che allora si inizia è il più discontinuo, il più delirante, il più risibile della storia del crimine. L'episodio sarebbe stato anzi del tutto farsesco se la società non avesse finito per sopraffare con la forza del numero il rivoltoso da lei stessa prodotto. A 6 anni Jules pigliava schiaffi, a 15 manganellate, a 36 la società lo punì per aver voluto vendicarsi degli uni e delle altre. Non si fosse dato l'esempio massacrando la gente della sua razza, la vita sarebbe diventata impossibile. Alle 8:30 da Choisy e perfino da Alfortville e da Thiais vengono a piccoli gruppi uomini armati di carabine, di fucili da caccia, di ciaspot arrugginiti, in mancanza di altro di randelli. Mai, al di fuori dei periodi di apertura di caccia, sono stati a una festa così bella. Il sindaco e il suo vice prendono il comando della truppa. «Tirate al minimo segno sospetto», dice loro Guichard. I volontari prendono posizione. Alcuni audaci si avvicinano sino a 60 metri. Più avanti c'è la No Man's Land, un terreno nudo e piatto, la zona smilitarizzata. Distesi a terra, i gomiti appoggiati al suolo, i volontari tengono la casa sotto tiro. Gli ispettori dietro gli alberi tengono i fucili pronti. I minuti passano, lo sguardo si annebbia nella concentrazione continua. Improvvisamente egli è là, di nuovo, in maniche di camicia sullo scalinata. Tende le braccia come per fare ginnastica, tira con 2 mani, vuotando tranquillamente i caricatori. Attorno a lui schegge l'intonaco, pezzi di legno volano, fischiano, si spaccano. Bonneau abbassa le braccia, li osserva per un istante, alza le spalle e rientra, per riapparire alla finestra e tirare ancora. 3 volte il gioco ricomincia. La tensione tra gli assalitori è in crescendo. Si tace, si scruta, con accanimento. Dopo le 9 arrivano successivamente 2 compagnie della Guardia Repubblicana, agli ordini del tenente Fontaine. La prima compagnia di riserva dei Gardiens de la Paix, comandata dal capitano Riondet, Altri ispettori della Sûreté, rappresentanti di altre brigate, la brigata anti-anarchica al gran completo. È la prima volta che si fa vedere. Un altro distaccamento di gendarmi venuti dalla Belle Épine. Poi i Capoccia, il prefetto di polizia, col pizzo al vento, assume la direzione delle operazioni. Guichard Paul, fratello di Xavier, commissario speciale alle HAL, Lescuvé, procuratore della Repubblica che lo segue come un'ombra ripetendo che esige che nessun uomo rischi la propria vita, il che è impossibile. Il sostituto Souterré, Gilbert, giudice istruttore, Marc, direttore generale delle ricerche, Tuny, direttore della polizia municipale, un distaccamento di pompieri e ancora, sì, ancora una trombetta che agli ordini di Le Pen suona alternativamente il fuoco e il cessate il fuoco. In tutto 500 uomini armati, e dapprima 5.000, poi da 10 a 20.000 spettatori accorsi dai dintorni e perfino da Parigi, in treno, in carrozze, in automobili personali, vengono ad annusare al Nido Rosso l'odore del sangue. I fotografi affaccendati drizzano i treppiedi, i reporter, i taccuini in mano, compongono febbrilmente il testo che riempirà la prima pagina del giornale. Arriva uno storpio, spinto da un ragazzo, nella sedia a rotelle. Ci sono vecchie che si fanno il segno della croce, donne con i loro bambini, militari in pensione che raccontano le loro campagne agli ordini di Gliaudier. Alle 10, uomini e donne che avevano fatto la comunione subito dopo la fine della messa si affrettano a loro volta a riempirsi gli occhi dello spettacolo edificante della giustizia in marcia. Un sole di primavera brilla nel cielo azzurro. In faccia, nella bicocca intonacata, sulle cui mura fragili le pallottole hanno aperto più brecce, c'è il nemico. Gli ufficiali, il piede destro in avanti, gonfiando il petto, osservano col binocolo. Si pensa che la banda, temibile e pronta a tutto, sia numerosa. È formata in realtà da un solo uomo, Bonneau. L'alloggio in cui è costretto è composto di una entrata totalmente vuota e di una camera arredata con un tavolo, una sedia, un letto di ferro, due materassi. Jules è accosciato a terra, al fondo della stanza, protetto dall'impiantito, perché quelli che l'assalgono tirano lo basso in alto. Una cinquantina di bossoli vuoti sono sparsi al suolo. Accanto alle scatole di munizioni piene, che rapidamente rovescia per ricaricare le sue cinque Browning. Un leggero soffio di vento agita le foglie degli alberi, in fondo al campo. Improvvisamente una raffica di pallottole strappa altri pezzi di intonaco, e cade con gran rumore. Una pallottola rimbalza come un ronzio di vespa su un montante del letto. La brezza doveva essere un segno sospetto. Suona la tromba. Manica di porci, borbotta Jules. Si alza e tira due o tre volte, con attenzione, come se il pericolo non esistesse, come se si augurasse di ricevere una pallottola in piena fronte. Ma non lo prenderanno. Malgrado i loro fucili Lebel, sono troppo maldestri. A vederli là riuniti, pieni di paura e di stupore, Jules sogghigna di disprezzo, se ne frega della sua pelle. Si rimette a sedere, ghignando, ancora striscia fino alla tavola, dove prende un foglio di carta quadrettata e una matita. Comincia a scrivere. La sua infanzia, la sua giovinezza, le sue speranze, le sue prime umiliazioni, l'abbrutimento delle officine e i calci nel sedere, quando rifiuta di essere una pecora. Questo lo rimette in collera. Si espone ancora. La vetrata vola in frantumi. Vermi schifosi. Sono dovunque, pullulano dietro ogni ala di muro, dietro ogni buco, ogni riparo, ogni albero, armati di Lebel, fuori dalla portata delle Browning. Tirano 500 colpi per volta, col rumore di legno vecchio che crepita nel camino. C'è gente importante laggiù, all'inizio dell'Avenue de la République, con sciarpe tricolori attorno al busto, e parlano, parlano. Sono venuti a vedere la morte d'un bandito, branco di porci. Jules si rimette al lavoro, accosciato sul pavimento. In fin dei conti ha di che esser fiero. Una bella fine la sua. Su di lui c'è una taglia di 100.000 franchi e si sono messi in 10.000 per acciuffarlo. Scrive: «Sono un uomo famoso. La fama diffonde il mio nome ai quattro angoli del mondo. La pubblicità fatta dalla stampa attorno alla mia umile persona renderebbe gelosi tutti coloro che cercano in ogni modo di fare parlare di sé e non ci riescono». Uno strano silenzio si diffonde. Un'ape entra dalla finestra e danza un assurdo furioso balletto in un raggio di sole. Là, in basso, in un angolo del bosco, i capi tengono un consiglio di guerra. «Bisogna lanciare un assalto», dice Paul Guichard. «Mi offro come volontario». «Anch'io», dice l'ispettore Robert. «Anch'io», ripetono in coro 10 voci. «Lasciamo perdere», tronca Le Pen. «Non voglio rischi. Ho mandato a prendere una mitragliatrice», propone allora un ufficiale. «Hotchkiss». Non resta che aspettare. «Il reggimento d'artiglieria di stanza a Vincennes è stato avvertito», suggerisce poi un plurigallonato col più grande sangue freddo. «Un bel colpo da 70 senza rinculo là dentro e non se ne parla più. È il modo migliore». «Troppo complicato», risponde Le Pen, alzando le spalle. «Ci vorrebbe l'autorizzazione del ministro». «Allora la dinamite», dice il tenente Fontan. «È venuto il momento di finirla. È ridicolo». «Voi ne avete di dinamite», gli replica Guichard. «Io ne ho», disse una voce grave alle loro spalle. Si voltano e rivolgono uno sguardo interrogativo a colui che li ha interrotti. Era un abitante della zona, Mathieu, un anarchico, della colonia del Nido Rosso, un compagno di Dubois, un altro bravo compagno. Gli uomini in divisa scuotono il capo e esitano. Sembra piuttosto umiliante, con tanti gallonati lì intorno, dover accettare l'offerta di un volgare borghese. Fontana insiste. Se si avanzasse riparati da una carretta di paglia, si sarebbe fuori dal tiro di Bonneau. Pouchet ha una carretta. Stavolta nessuna obiezione. «Proviamo?» domanda Fontana. «Bene, ma siate prudenti», ordina Le Pen. I preparativi cominciano. Suona un altro cessate il fuoco. Arriva il carretto. Un lungo brivido di angoscia, d'estasi e di amore percorre la folla all'annuncio della notizia. Tutti gli sguardi si puntano su Fontana. Applausi frenetici, una folle ovazione si leva verso quest'uomo il cui disprezzo della morte, il cui freddo coraggio suscitano l'ammirazione generale. Due donne svengono. Comincia l'avanzata. Uscì, fa arretrare il cavallo dietro il carretto per maggiore precauzione. Ha fissato un materasso vicino a lui. Ci sono Fontan e Rendu, il sindaco che non vuol restare indietro. Ci vogliono circa 10 minuti per arrivare ai piedi della casa, da cui non proviene alcun rumore. I parasoli dei borghesi, sempre più numerosi, venuti in coache, in limousine, in torpedo, palpitano con ebbrezza. Fontan si insinua fra le ruote, mette la carica, srotola il cordone Bickford. Il carretto torna verso gli spettatori. Fontana accende la miccia. Attesa. Un minuto, due, tre, niente. La miccia deve essersi spenta, suggerisce qualcuno. Bisogna ricominciare. La folla ansima. Le donne non ne possono più. Mentre là in basso la muta è stupita dal suo silenzio, Jules ricomincia a scrivere. Io non chiedevo granché. Camminavo con lei al chiaro di luna, nel cimitero a Lione. Era la felicità che avevo sognato per tutta la vita, la che ho sempre cercato e che ogni volta mi è stata sottratta. La società non mi ha compreso. Ho il diritto di vivere. E poiché la vostra società imbecille e criminale pretende di impedirmelo, allora tanto peggio per lei, tanto peggio per tutti voi. Devo rimpiangere ciò che ho fatto? Sì, forse, eppure andrò avanti, questa volta echeggiò una duplice e terribile esplosione. Pezzi di pietre e di terra lo colpirono. La casa trema, s'alza una nuvola di fumo. Banda di porci, urla. Si precipita sul letto, tira a terra il secondo materasso sopra il primo, si infila fra i due, come in un sandwich. 3 pistole a portata di mano, sanguina, è ferito, poi si alza di nuovo. Va a cercare il suo foglio, che poco dopo definirà testamento, e la matita. La punta è rotta, imbeve l'estremità della matita nel suo sangue e traccia nel modo più chiaro possibile le ultime parole. La signora Tollon è innocente. Tollon, petite mange, Gosi, Dieudonné sono innocenti. È poi tanto frequente un morente che pensa agli altri nei suoi ultimi istanti? 5 minuti più tardi echeggia una seconda esplosione. Questa volta la carica è stata piazzata direttamente nell'hangar. Il pavimento, il soffitto, i muri e il tetto crollano a metà su Jules, disteso fra i due materassi. Si sviluppa un incendio. Jules prende la Browning, la appoggia alla tempia, tira un colpo, 2 colpi. Quando qualche secondo più tardi arrivano i poliziotti spingendo davanti a loro come scudi dei materassi, alla loro testa sono Paul Guichard e Fontan. Egli ha ancora la forza di alzare l'arma e far fuoco 3 volte. Branco di maiali, mormora un'ultima volta. Delle pallottole gli penetrano nel corpo. Una nella spalla, un'altra nel petto, una terza si schiaccia sul grosso orologio da taschino con la catena nichelata. Le lancette si fermano. È mezzogiorno meno 2. L'assedio è durato 4 ore e mezza. La mano di Bonneau si contrae sul calcio della pistola, schiaccia il grilletto ancora 2 volte. La seconda volta il caricatore è vuoto, il revolver gli cade di mano. Il servizio d'ordine dovette battersi contro la folla scatenata che voleva fare a pezzi il corpo di Jules Bonneau. I poliziotti furono costretti a fargli strada col calcio dei fucili, attraverso la massa che urlava e sputava, fuori di sé, sino alla macchina di Gratier, industriale di Chausey-le-Roi, che portò Bonneau all'ospedale maggiore. Qualche forsennato, inseguito dagli agenti, si ostinò contro il cadavere di Dubois, che giaceva a braccia conserte davanti alla casa. Quando Bonneau arrivò all'ospedale a 12:35, respirava ancora. Morì soltanto all'1:15. Alle 2 il suo corpo raggiungeva all'obitorio quello di Dubois. Il giorno dopo, 29 aprile, mentre Parigi tributava solenni onoranze funebri a Juin, Notre-Dame, i loro corpi erano gettati nella fossa comune del cimitero di Bagneux. Lo stesso giorno, per illustrare meglio la regola secondo la quale sulla terra, come in cielo, i buoni vengono ricompensati e i cattivi puniti, i giornali annunciavano che Xavier e Paul Guichard, il tenente Fontaine, gli agenti Augin e Arlon sarebbero stati decorati con la medaglia d'oro della polizia. In cambio, la brigata criminale veniva stabilita per decreto legge è destinata, come indicava il suo nome, a scoraggiare e catturare i malfattori. In seguito, in previsione di nuovi assedi da sostenere contro i banditi, la polizia sarebbe stata dotata di scudi blindati. Infine, per meglio assicurarsi che i castighi dei miserabili che la giustizia avrebbe condannato fossero all'altezza dei loro delitti, il procuratore della Repubblica decise che da allora in avanti l'avanzamento dei magistrati nella carriera è stato in relazione alla severità delle pene da loro inflitte. Il 19 maggio si svolse la vendita all'asta del garage Dubois. Antiquari, curiosi, feticisti si pigiavano nella stanza. Tra moto, biciclette, 2 letti e diverse cassette di arnesi si raggiunsero appena i 100 franchi. Parallelamente, nel campo situato davanti all'edificio, si teneva un stupefacente mercato. Astuti venditori ambulanti avevano avuto l'idea di svaligiare la casa. Vendevano le assi di legno piate del sangue di Jules. Pezzi di tavolo bucati dalle pallottole, bossoli vuoti, accumularono una piccola fortuna perché gli amatori erano molti. Nello stesso momento si svolgeva a Palazzo di Giustizia di Lione il processo contro Joseph Petit de Mage, Judith Jean-Baptiste e Jean-Baptiste Tollon, sotto la presidenza del signor Genevieve. Erano accusati di complicità in furto e ricettazione. Orde di guardie proteggevano l'ingresso alla sala delle assise, zeppa di folla. La vettura era invasa di prove testimoniali, biciclette, moto, pneumatici, generatori ad acetilene. Ce n'era fin sul tavolo della stampa. Il voluminoso atto di accusa, letto dal cancelliere Mathieu, si rivelò un noioso elenco di tutti i crimini di Bonneau. Ma poiché il processo intentato a suo danno sarà estinto con la morte dell'imputato, ci si accanì contro le comparse. Petit Demange ebbe un anno di prigione. Tollon, come pena per essersi comportato da marito troppo cieco o troppo compiacente, un anno, con la condizionale. Judith, la moglie, fu il bersaglio di tutti gli attacchi del presidente, malgrado il carbonchio al collo che le procurava febbre e dolore, era molto bella nell'elegante vestito marrone, con un cappello beige sormontato da un pennacchio di piume bianche. Si tentò in ogni modo di presentarla come una complice diretta. Negò. Le intimarono di confessare, d'essere stata l'amante di Jules. Negò ancora, poi piangendo. Non ho mai avuto amanti, né Bonnot né altri, gridò. Prigioniera anch'essa, si sarebbe detto, di un moralismo convenzionale da piccola borghese. Ma come dire la verità quando il bravo Tollon era là, che la divorava con i suoi occhi da pesce fritto, mordicchiando il fazzoletto coi denti, innamorato, malgrado tutto, della sposa adultera? Jules era morto, difenderlo non serviva più a niente. Inoltre, ella ne era certa, egli, per delicatezza, avrebbe approvato la sua pietosa menzogna. Fu condannata a 4 anni e morì in prigione di disperazione. Libri ribelli. Libri ribelli.